30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Считаю, считаю, все исходит отсюда, от руководства Украины. 17 febbraio 2009, l'ambasciatore russo a Kiev, Viktor Chernomyrdin, potrebbe essere dichiarato persona non grata. Lo ha affermato il governo di Kiev, che accusa l'ambasciatore russo di avere espresso nei confronti delle autorità ucraine pareri incompatibili con il suo ruolo. Kiev minaccia, Mosca reagisce. Un eventuale ricorso all'articolo 9 della Convenzione di Vienna, quindi l'espulsione del diplomatico, non resterà senza risposta. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il nostro spazio del fine settimana dedicato ad approfondire le notizie che corrono veloci nel nostro panorama informativo. Io sono Gigi Donelli, con me oggi c'è Antonella Scott, che è inviata del Sole 24 Ore, che dalle pagine del quotidiano e su sole24ore.com vi racconta la Russia e i suoi cambiamenti. Buonasera Antonella Scott. Buonasera. Dunque, Antonella, fare scoppiare l'ira ucraina è stata un'intervista al quotidiano russo Komsomolskaya Pravda, in cui l'ambasciatore appunto se la prende e duramente, nettamente, con il presidente Viktor Yushchenko e con il premier Yulia Tymoshenko. Due dirigenti, dice, con i quali non ci si può proprio intendere. E addirittura si spinge oltre, auspicando l'arrivo di altri al potere per poter riprendere delle normali relazioni tra Mosca e Kiev. Insomma, il meno che si possa dire, il minimo che si possa dire, è che i rapporti non siano buoni, accade ormai da qualche anno, anzi direi si fanno progressivamente tesi. Che succede dalle parti di Mosca e Kiev? Beh, direi che il vero problema è che Mosca non è ancora riuscita a accettare in realtà l'indipendenza dell'Ucraina. Per capire, bisogna proprio andare un po' a vedere anche la storia, ma non soltanto la storia sovietica, ma andare molto più indietro e pensare che in realtà la separazione tra Russia e Ucraina non è stata una semplice separazione come un impero con una sua colonia, o così come è stata la separazione dagli stati baltici per Mosca. In Ucraina si dice che in realtà la Russia è nata lì, è nata con la Rus' di Kiev, il vecchio principato, il primo principato russo è nato in Ucraina, e a Kiev dicono qua non possiamo neanche dire quanto più Rus', non si sa se è più russa la Russia o l'Ucraina. Ci sono dei legami al di là dei legami economici, i gasdotti, le infrastrutture, c'è una lingua poi di fatto in comune dal momento che poi il russo è la lingua di gran parte degli ucraini, c'è una religione in comune e quindi è molto difficile, bisogna pensare a questa categoria per capire quanto è poi al di là degli interessi strategici di Mosca, quanto è stato difficile lasciare andare l'Ucraina. Insomma, una relazione storica, culturale, religiosa molto intima in un territorio peraltro che non ha di fatto un confine fisico, perché il passaggio dalla terra ucraina alla terra della Russia occidentale è un continuum assoluto, tra l'altro. Sì, è un paese davvero diviso, diverso, c'è la regione occidentale che appunto, come dici tu, è molto più proiettata sulla Polonia, sull'Europa dell'Est, le regioni del Sud e invece dell'Est sono più vicine alla Russia, infatti sono le regioni che hanno sempre votato il partito delle regioni più vicino a Mosca, qui si parla russo, quindi anche in un momento in cui la leadership è divisa è anche molto difficile tenere unito il paese. Ecco, questo naturalmente fa parte della complessità storica dell'Europa centrale e dell'Est, ma torniamo in qualche modo al nostro primo protagonista. Считаю, все исходит отсюда, от руководства Украины. Ecco, questo è Viktor Chernomyrdin. Viktor Chernomyrdin è un signore che compie 71 anni tra pochi giorni e il minimo che possiamo dire di lui è che non è esattamente un ambasciatore come tutti gli altri. Brevemente, una storia politica e personale centrale negli ultimi 30-40 anni della storia russa. Nasce in un piccolo paese di provincia, è meccanico in una raffineria, poi si iscrive al CUS nel 61, diventa, una volta laureato per corrispondenza, un responsabile del settore petrolifero, dove peraltro ha sempre lavorato e vissuto. Il salto vero lo fa attraverso il partito, che nel 75 lo pone al vertice della raffineria di Orenburg. Nell'82 diventa addirittura ministro dell'industria del gas dell'Unione Sovietica e nell'89 governa la transizione dal sistema totalmente, diciamo, pubblico e sovietico, e di fatto crea Gazprom, quel colosso che ormai siamo abituati a citare nella vita quotidiana. Poi sarà primo ministro. Insomma, Antonella Scott, Chernomyrdin non è un ambasciatore come tutti gli altri. No, c'è da dire, per fare una notazione più lieve, che è anche molto poco diplomatico. È famoso per le sue frasi, che anche sempre un po' sono particolari, perché lui è un uso molto personale della sintassi, quindi è anche un po' preso in giro per il fatto di mettere insieme delle espressioni un po' sgrammaticate. E la più famosa è quella in cui disse: volevamo fare del nostro meglio, ma alla fine è andata come al solito, per dire la difficoltà delle riforme, appunto, nel periodo in cui era primo ministro di Yeltsin. In questo caso è andato davvero un po' oltre il proprio ruolo, perché ha anche confrontato la Timoshenko e Yushchenko a dei cani, dice, si attaccano come dei cani colpendosi a vicenda. C'è da dire che appunto non è davvero un ambasciatore usuale. Bisogna pensare che lui ammette lui stesso, come appunto ex ministro dell'industria sovietica del gas, lui è stato responsabile di tutto ciò che riguardava l'Ucraina, di tutto ciò che era stato costruito in Ucraina nel periodo sovietico, e quindi lui stesso ammette di non poter restare indifferente di fronte a una crisi, è un protagonista. Ecco, non lo fa, interviene in maniera pesante. Mosca peraltro riconosce questo aspetto, tu ti dicevi, insomma, la sua sintassi, è un uomo, si sarebbe detto sicuramente un uomo del popolo, che viene dal popolo, che è emerso come figura importante negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, ma mentre viene un po' ripreso per i suoi eccessi, Mosca d'altra parte si preoccupa di ribadire che condivide il contenuto. Certamente, in questo momento Mosca si sente libera di attaccare questa leadership ucraina, perché farebbe di tutto per togliere di mezzo il presidente Yushchenko, ha fatto di tutto, tra l'altro c'è il forte sospetto, che forse anche di più di un sospetto, che sia stata dietro l'avvelenamento che ha rovinato il viso del presidente Yushchenko. Putin non dimentica di aver perso la faccia con l'elezione di Yushchenko nel 2005, dopo la rivoluzione arancione del 2004, quando per due volte si congratulò ufficialmente con il rivale di Yushchenko di allora, Yanukovych, e quando invece i risultati poi delle elezioni andarono da tutt'altra parte, e appunto ci fu l'elezione di Yushchenko. Ecco, le tensioni all'interno della famiglia slava, si potrebbe dire, si percepiscono veramente con una forza formidabile proprio tra Mosca e Kiev, che, come abbiamo detto, come ci hai raccontato, sono due capitali senz'altro sorelle e legate da millenni di storia. Hai citato la rivoluzione arancione, il periodo, l'inverno a cavallo tra il 2004 e il 2005, che ha portato questa grande svolta, è la figura di Viktor Yushchenko. Ne parliamo senz'altro nella seconda parte del nostro programma. Per chiudere questo primo blocco ti vorrei però chiedere una cosa. Il gas è, per noi almeno, per noi osservatori dall'Italia, dall'Europa occidentale, è sempre l'elemento del contendere. Abbiamo vissuto un'ultima crisi poche settimane fa. A che punto siamo su questo fronte? Non siamo a un buon punto, perché da una parte la Timoshenko, il primo ministro, sta facendo una gran fatica a far accettare l'accordo che ha stretto con Mosca, sia perché questo accordo prevede sostanzialmente un prezzo raddoppiato del gas, che in questo momento di crisi l'industria ucraina fa molta fatica a sopportare, e da dall'altra parte, perché questo accordo, appunto, per la nota divisione, guerra continua con il presidente, il presidente Yushchenko sta facendo di tutto per affossarlo. E l'ultima notizia è che Naftogaz, cioè la compagnia energetica ucraina, ha detto ieri che ha detto in questi giorni che le compagnie regionali non riescono a star dietro ai pagamenti e quindi farà fatica lei stessa a pagare Gazprom. Non vorrei che questo potesse portare a un nuovo scontro. 30 minuti in cronaca. Ecco, questi sono i suoni delle giornate tra il dicembre del 2004 e il gennaio del 2005, quando Kiev diventa la capitale della rivoluzione arancione. È un grande movimento, tutti i media mondiali raccontano questa trasformazione, questa battaglia di colori, gli azzurri o l'azzurro dei filo russi di Yanukovych, l'arancione appunto di questo presidente che diciamo dimostra immediatamente di conoscere anche i meccanismi dei media internazionali e quindi appare così vicino, così carico di speranze nei rapporti con l'Occidente. Allora, Antonella Scott, sembrano passati molti più anni di quanto in realtà appunto il calendario non ci dica. È davvero triste vedere come la gente, gli ucraini, si sentano traditi, siano disillusi nei confronti non certo degli ideali della rivoluzione arancione, ma verso i leader. In fondo tutti e tre i protagonisti, anche Yanukovych, che era diciamo il nemico di Timoshenko e Yushchenko di quei giorni, perché poi di fatto da allora tutti e tre in qualche modo si sono sempre avvicendati al potere. E tutti e tre hanno deluso. La popolarità del presidente, secondo alcune indicazioni, è addirittura del 2%, quindi forse una delle più basse al mondo. Cioè la popolarità del presidente attualmente è del 2%? Sì, secondo alcuni sondaggi sì. Non ha, e questo è comunque opinione comune, non avrebbe alcuna possibilità di essere rieletto se ci fossero le elezioni ora. Ecco, questo era l'uomo che diciamo muoveva le masse, che raccoglieva appunto nelle grandi strade, nell'architettura staliniana di Kiev, del centro di Kiev, milioni di persone da tutte le parti del paese. Che cos'è accaduto? Tu dicevi gli ucraini non hanno rinunciato diciamo alla parte degli ideali, che fondamentalmente era quella di poter avere maggiore democrazia, maggiore correttezza nei processi elettorali e anche in generale una vicinanza anche fisica e psicologica con l'Occidente, con cui chiaramente interagiscono in questi anni in maniera intensissima. E allora qual è il punto del tradimento? Qual è l'elemento di tradimento? Ma è difficile dirlo, perché gli stessi amici, collaboratori di Yushchenko, che a poco si sono allontanati da lui, non riescono a capire. In realtà l'uomo sembra una persona onesta che è rimasta fedele, lui vuole genuinamente un'Ucraina più vicina all'Occidente, è una persona competente in economia, perché è stato anche governatore della Banca Centrale, ha dato stabilità fino a prima della crisi alla moneta, però poco a poco è come se si fosse allontanato dai suoi stessi ideali e si fosse semplicemente concentrato sulla difesa del proprio potere, a prescindere da tutto, combattendo quella che è diventata la sua rivale, anche se in modo un po' surreale. Adesso il primo ministro Yulia Timoshenko è in coalizione con il partito di Yushchenko, però sono impegnati in una lotta direi proprio feroce che li mette contro su ogni argomento, ignorando appunto il momento particolarmente difficile per il paese. Che vive il paese, infatti. Yushchenko! Yushchenko! Yushchenko! Ecco, questo tempo sembra effettivamente molto lontano. Oggi quello che leggiamo di questo paese, almeno dalle agenzie, è qualcosa di molto brutale. Ve ne leggo una: l'Ucraina si trova sull'orlo del baratro. A gennaio la crescita del PIL dovrebbe rallentare del 20% su base annuale, e lo riferisce un funzionario di banca, un'agenzia internazionale di Kiev, dopo il drammatico meno 34,1% della produzione industriale del primo mese dell'anno. Insomma, mentre i leader, il potere litiga al suo interno, il paese deriva pericolosamente in una crisi profondissima. Sì, il grosso problema per l'Ucraina è stato il calo dei prezzi dell'acciaio, che costituiscono la base dell'export ucraino, e da qui è iniziato il calo dell'industria, molte fabbriche hanno iniziato a chiudere, a mandare a casa i propri dipendenti, tanti vengono mantenuti al lavoro ma non vengono pagati, quindi a poco a poco si comincia a diffondere un malessere, una rabbia che a questo punto è contro tutti i politici. È molto triste vedere come nella piazza dell'Indipendenza, dove nel 2004 era andata in scena la rivoluzione arancione, oggi ci sono delle tende con la scritta Gnet Siek, se pronuncio bene, via tutti, e i ragazzi che inscenano queste dimostrazioni spiegano di voler mandare a casa tutti gli attuali leader, perché sono delusi da tutti hanno avuto questa rotazione al potere e a nessuno viene riconosciuta la capacità di poter aiutare il paese. Sembra che verso la primavera sia possibile immaginare una mobilitazione più ampia, proprio perché a poco la gente comincerà a sentire sempre di più gli effetti della crisi, cominceranno a esserci anche meno cose da comprare. Ecco, in bilico tra le storiche relazioni con il grande vicino russo e l'Occidente, rappresentato da Bruxelles o dagli Stati Uniti, l'Ucraina a chi si può rivolgere in questa fase di difficoltà? In questo momento si sta rivolgendo a tutti. A Timoshenko, che ha concluso l'accordo col gas con la Russia e però ora sta facendo molta fatica a tenere il budget in equilibrio, anzi in realtà il budget per il 2009 prevede già un deficit circa del 3%. Questo va contro le condizioni poste dal Fondo Monetario Internazionale, che aveva assicurato un prestito di 16,5 miliardi di dollari. Ora lo sta tenendo in sospeso perché il budget non è più in equilibrio come era stato previsto, e a questo punto la Timoshenko che ha un assoluto bisogno di liquidità immediatamente ha chiesto un prestito a vari paesi, ma in particolare l'ha chiesto alla Russia, ha chiesto 5 miliardi di dollari che probabilmente non arriveranno mai, perché lei non ha l'autorità per poter dare alla Russia quello che in realtà poi la Russia chiede in cambio, e cioè il controllo su alcune zone del paese, quelle che su cui rivede. Su alcune zone sensibili. Ecco. Bene, adesso a proposito di queste zone sensibili abbiamo ancora credo 3 minuti per parlarne, già, perché questo potrebbe essere proprio il nuovo fronte. In primo luogo, non credo di sbagliare se penso che il tuo riferimento sia rivolto alla Crimea, esatto. Un luogo, ancora una volta entriamo in un ambito che è politico, geopolitico, ma anche così intimamente russo, perché insomma le città costruite da Caterina la Grande, lo sbocco a sud, sono assolutamente legate alla storia della Russia imperiale, oggi in territorio ucraino. Sì, la base, in particolare la base di Sebastopoli, che è la base della flotta russa del Mar Nero, è concessa in affitto ai russi fino al 2017, in base a un trattato del 97, che ovviamente adesso Yushchenko mette in discussione, e che potrebbe essere, si è detto soprattutto l'estate scorsa, ai tempi della guerra in Georgia, poteva rischiare di diventare una nuova scintilla di un altro conflitto. Quando parlavamo del prestito, una delle condizioni poste dai russi è sicuramente la garanzia che questa base rimarrà alla Russia, è come se diciamo, i 5 miliardi che la Russia potrebbe prestare possano essere un anticipo sull'affitto della base. Ripeto, non è un accordo che la Timoshenko come primo ministro può imporre al paese se non è d'accordo il presidente, e il presidente nei giorni scorsi ha già equiparato sia questo tentativo di accordo con Mosca, sia l'accordo sul gas, lo ha equiparato al patto Molotov-Ribbentrop del 39, e quindi ha accusato la Timoshenko di tradire gli interessi nazionali. Insomma, questo non è certo il clima in cui si può immaginare che si trovi una soluzione. Parole anche molto pesanti, l'evocazione di momenti storici drammatici. Il 2017 è una scadenza definita nel 91, appunto nei tempi della separazione. Sembravano molti anni, gli anni si sono rapidamente consumati e di fatto sono al dunque. La Crimea è un luogo anche molto particolare in cui Sebastopoli, così carica di storia dell'Ottocento e del Novecento, vive una realtà in qualche modo sospesa tra la sua cultura russa, tra il suo essere geografico in Ucraina, e questo forse è un ulteriore elemento di questa complessità. Un'ultima battuta con Antonella Scott, insomma, questo rapporto, l'abbiamo detto più volte, è così intimo, così familiare, così esplosivo, forse per questo? Sì, ma potrebbe anche essere la via d'uscita. In fondo mi sembra di capire che gli ucraini quello che chiedono è non vogliono essere né trascinati dalla parte dell'Europa né dalla parte della Russia. Loro hanno un ruolo di mediatori, sono appunto sono a metà strada, sono un paese di transito. Quello che loro chiedono è di poter rimanere in buoni rapporti sia con i russi sia con l'Unione Europea, e dicono: non ci fate litigare per forza. Forse anche questa è una responsabilità per l'Europa e gli Stati Uniti, di aiutare l'Ucraina, non mettendola però in contrapposizione con la Russia e usandola, diciamo, come mediatore di cui ci sarà sempre bisogno. Grazie ad Antonella Scott, lo ricordo, inviata del Sole 24 Ore, che ci racconta la Russia e l'est europeo nelle pagine del giornale e attraverso naturalmente il sole24ore.com. Io ringrazio anche in regia oggi Peter Bescapè. Non mi resta che ricordarvi che questo, come tutti gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato su radio24.it, e augurarvi un ottimo fine settimana.